Scuola in controluce. Io vorrei fare un liceo classico, però vorrei tenere conto anche di altri licei perché sono indecisa. Vorrei fare un istituto professionale alberghiero, però sono ancora indeciso. Cosa vuoi fare da grande? Non ne ho idea. E hanno proprio ragione questi ragazzini, come si fa a sapere cosa si vuole fare nella vita a 13 anni? Sono davvero pochi quelli fortunati che hanno già le idee chiare. Ma idee chiare o no, è tempo di scelte questo. È arrivato infatti il momento di iscriversi alla scuola superiore, o meglio alla scuola secondaria di secondo grado, come si chiama. E oggi Radio 24, come sapete, ha deciso di dedicare un'intera giornata di approfondimenti proprio a questo argomento. Avete già sentito la puntata di Salva Danaio con Deborah Rosciani, che vi ha raccontato tutto quello che c'è da sapere dal punto di vista pratico. Allora stasera invece ne parleremo ancora più diffusamente nel nostro speciale in onda dalle 21 alle 23. Fra l'altro, proprio oggi pomeriggio dovrebbe essere diffusa dal Ministero della Pubblica Istruzione la circolare con tutti i dettagli. Sarà interessante in particolare capire quando è la data entro la quale fare l'iscrizione, data che comunque sarà intorno a metà febbraio come negli anni scorsi. Allora è proprio questo il momento in cui in famiglia si parla davvero tanto di questo argomento, è il momento degli open day nelle scuole. A scuola, proprio in questi giorni, viene consegnato ai ragazzi il famoso consiglio orientativo, cioè quel bel bigliettino su cui gli insegnanti delle medie scrivono quale secondo loro è la scuola più adatta, più indicata per quello studente. Dunque c'è scritto liceo, istituto tecnico oppure professionale, viene anche specificato in molti casi quale istituto tecnico, quale liceo o professionale. Allora sentiamo un assaggio di quanto succederà stasera, un assaggio con Francesco Dell'Oro dell'Ufficio Orientamento del Comune di Milano e autore di un libro gustosissimo proprio su questo tema, un libro che consiglio a tutti perché ci fa fare anche quattro risate su un argomento che in famiglia sta creando anche un po' di problemi. Si chiama Cercasi scuola disperatamente. Abbiamo chiesto a Dell'Oro intanto le regole principali da seguire per non sbagliare scuola superiore o almeno provarci. La prima regola, ma è quella che racconto sempre ai genitori, agli studenti, è che bisogna scegliere un corso di studi che non li mandi in sofferenza, nel senso che dobbiamo aiutare i ragazzi, gli adolescenti a trovare un punto di equilibrio fra il tempo studio e il tempo libero, che sono due tempi sacri. A volte come genitori, come adulti, siamo più portati a insistere sul tempo studio e a banalizzare a volte il tempo libero, mentre i momenti di aggregazione sono fondamentali. Mi riferisco ad attività sportive, i ragazzi che vanno alla partita di pallavolo, di basket, di calcio, perché in quei momenti di aggregazione passa un'etica dei comportamenti, un sistema di valutazione, un sistema di regole, ci sono figure di riferimento molto importanti. Quindi un corso di studi che non li mandi in sofferenza e che permetta loro di vivere la loro vita di studenti e di adolescenti. La seconda è molto importante, è questa. Quando i ragazzi scelgono un corso di studi, devono rispondere a questa domanda: cosa mi interessa, cosa mi appassiona, cosa mi incuriosisce? E dato che a 12-13 anni non è facile, ecco che i compagni di viaggio più qualificati possono essere gli insegnanti, i genitori, anche quando hanno opinioni diverse, ma la capacità di ascoltarsi, di confrontarsi diventa fondamentale. E poi certo l'impegno. L'impegno, io devo sapere, devo capire bene quel corso di studi, come è organizzato, che materie presenta. Tre o quattro domande. Sono bravo in matematica, vado al liceo scientifico, sono bravo in italiano, vado al classico, non sono tanto bravo, allora vado a un tecnico, sono un somarello, vado a un professionale. È giusto questo meccanismo mentale? No, è profondamente sbagliato, anche se queste indicazioni non vanno banalizzate, però queste gerarchie sono troppo scolastiche e molto opinabili. Il mondo del lavoro va in un'altra direzione. In questi giorni sono uscite una serie di dati da parte delle Camere di Commercio con i quali si precisano le competenze richieste ai diplomati e ai laureati. Le competenze più richieste riguardano ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, in un team di lavoro, la capacità di relazionarsi con i clienti, la flessibilità, l'adattamento, il problem solving soprattutto per i laureati. Ecco, però la capacità di stare insieme, di ascoltarsi, di lavorare in un team di lavoro diventa fondamentale. Probabilmente le gerarchie scolastiche vanno un po' riviste, ma soprattutto occorre fare un po' di pulizia nelle aule scolastiche, nei muri, nell'aria, perché c'è un criterio che è ormai inaccettabile, la dobbiamo smettere di dire che quelli bravi vanno al liceo, i meno bravi i tecnici, gli sgarruppati gli istituti professionali, la Croce Rossa, la formazione professionale, perché questo è un modo devastante che non riesce a valorizzare le competenze, i talenti dei ragazzi. Ma soprattutto risponde a una pratica orientativa veramente devastante e sbagliata, perché tante volte si interviene stigmatizzando quello che i ragazzi non devono fare invece di valorizzare attitudini e capacità che rispondono a stili cognitivi diversi, a storie, a vissuti diversi. Come si giudica una scuola? Siamo tutti in giro in questi giorni per Open Day, però insomma gli Open Day, si sa, i presidi raccontano un po' quello che vogliono, no? E anche i professori presentano la scuola che vorrebbero più che la scuola che è. E allora qualche piccolo criterio da seguire per giudicare una scuola non è facile. Più che il primo criterio è un consiglio importante. Portiamo i nostri ragazzi agli Open Day, perché loro hanno delle antenne che noi adulti non abbiamo. E loro riescono a cogliere qualcosa di più dell'informazione. Il marketing un po' ci sta, mettiamolo pure in conto, ma in quegli incontri, a mio modo di vedere, i genitori, gli adulti dovrebbero fare domande più pertinenti ai dirigenti scolastici sul sistema di valutazione, su come la scuola è attrezzata quando il ragazzo va in difficoltà. Non dobbiamo sempre immaginare la scuola per quelli bravi. I ragazzi possono andare in difficoltà e allora come risponde quell'istituto? Insomma, mi riferisco al fatto che noi adulti, negli incontri con i dirigenti scolastici, con i docenti, dobbiamo saper cogliere il respiro pedagogico di quella scuola. La capacità di seguire nel percorso di studi un ragazzo sostenendolo in un percorso non facile, anche perché noi dobbiamo avere questa consapevolezza. Stiamo chiedendo a dei ragazzi di 12-13 anni, nel momento più sbagliato, perché è il momento di profondi cambiamenti a livello fisiologico, a livello cognitivo, a livello relazionale, stiamo chiedendo loro di fare una scelta scolastica e quindi nel momento meno adatto. E quindi per molti è una scelta prematura, ma soprattutto abbiamo a che fare con una scuola che non è orientativa. Abbiamo preso l'esperienza degli ITSOS, che è avviata negli anni 70 e però messa da parte 3 anni fa così duramente, senza neanche chiederci cosa avevano sperimentato. Questi avevano sperimentato un biennio formativo, forse magari un biennio formativo era sbagliato, ma almeno un primo anno orientativo in questa benedetta scuola superiore lo dovremmo immaginare, perché noi quest'anno abbiamo assistito veramente a piccoli drammi, a preoccupazioni, a vie crucis incredibili dei ragazzi che volevano cambiare corso di studi e non sono riusciti a farlo. In questi giorni gli insegnanti stanno dando alle famiglie il famoso consiglio orientativo, un fogliettino dove c'è una specie di condanna a morte, no? Liceo scientifico, liceo classico, professionale, tecnico, un'indicazione che lo studente in qualche caso è tenuto a seguire, perché ci sono delle scuole comunque che chiedono che il consiglio orientativo indichi quella scuola stessa. Legge, deve dettar legge questo consiglio orientativo o deve essere soltanto uno dei tanti tasselli? Allora, il consiglio orientativo di per sé non è vincolante per le famiglie, perché i genitori possono fare anche scelte diverse, ma ciò detto, i dati statistici che abbiamo, le indagini che vengono fatte anche dalle scuole ci confermano che la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi che seguono quel consiglio orientativo hanno un esito positivo. Però c'è un altro dato, statisticamente minore, ma che ci conferma che come insegnanti ci siamo sbagliati, perché c'è questo bene prezioso che è l'imponderabilità nei processi di crescita e di maturazione, che a volte sa sorprenderci e che noi dobbiamo custodire. E allora, il consiglio orientativo non va mai banalizzato, e quando dovessimo fare anche una scelta diversa, va bene? Scelta che ovviamente non è possibile in quegli istituti dove viene richiesto il consiglio orientativo, ma se facciamo una scelta diversa, chiediamo sempre agli insegnanti le ragioni che li hanno portati a dare un consiglio orientativo diverso. L'ideale sarebbe non arrivare a questa specie di sentenza nel mese di dicembre, io questo lo dico sempre, anche da un po' di anni. Bisognerebbe costruirlo questo consiglio orientativo, ma in un confronto sistematico continuo che parta già dalla seconda media, con i genitori, con gli insegnanti, con i ragazzi. L'ideale sarebbe arrivare ad una scelta condivisa, non è così impossibile. Grazie mille dottor Dell'Oro, ci sentiamo allora stasera per lo speciale dalle 21 alle 23. Temo di sì. E allora do anche a voi che ci ascoltate appuntamento a questa sera alle 21. Ci saranno tantissimi ospiti, insegnanti, presidi, il vicepresidente di Confindustria per l'Education Lobello, sottosegretario del MIUR Elena Ugolini e poi ancora Daniele Grassucci di Scuola.net, l'avete sentito anche poco fa in Salva Danaio, e tantissimi altri. Potete già inviare le vostre domande a scuola incontroluce @radio24.it oppure andando sulla pagina Facebook di Scuola Incontroluce. Stasera potrete partecipare in diretta chiamando l'800 24 00 24. Un saluto da Maria Piera Ceci.